2, 4, 6, 8, 22. One more time now. 2, 4, 6, 8. Ooh, I'm synchronized with you. Now if you wanna time it so, maybe it's time to soul time. Ciao a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Soul Time. Prima puntata di una serie di puntate, penso ce ne sarà un'altra, massimo altre due, dedicate alla storia e alla musica del mitico Wigan Casino. Wigan Casino, un nightclub di Wigan, appunto, in Inghilterra. Un nightclub che è storico per quanto riguarda la scena Northern Soul e che tutti gli amanti, ovviamente, sicuramente conoscono e ne hanno sicuramente sentito parlare. Il Wigan Casino è stato operativo tra il 1973 e il 1981 e appunto, come dicevo prima, è rimasto come probabilmente il club più famoso, più leggendario per quanto riguarda la musica e la scena Northern Soul. Il Wigan Casino nasce dopo l'eredità di locali storici come il Twisted Wheel di Manchester, il Chateau Hinckney di Droitwich, il Catacombs di Wolverhampton e il Golden Torch di Tunstall a Stoke-on-Trent, di cui ci siamo occupati una decina di puntate fa. Il Wigan Casino nasce appunto a Wigan, come dicevo prima, da un'idea del DJ locale Russ Winsley, il manager Mike Walker e il proprietario della sala da ballo Wigan Casino, Gary Marshall, proprio da un'idea di iniziare a fare una serie di all-nighter. Questa puntata e anche la seguente saranno un pochino diverse dall'impostazione classica di questa trasmissione di Soul Time. Sarà per lo più un DJ set in cui parlerò molto poco e mixerò tanto dai vinili della mia collezione e ci ascolteremo tanta musica che è passata all'interno del Wigan Casino. Un pochino di cenni storici per quanto riguarda questo locale straordinario. Alle 2 del mattino, alle prime ore di domenica 23 settembre 1973, le porte del Wigan Casino si aprirono per la prima volta alla folla di tutti gli amanti del Northern Soul. C'erano luoghi molto più nuovi, più innovativi nella loro evoluzione di nuovi stili di Northern Soul rispetto al Wigan. C'era un club per i puristi, per gli innovatori, per i collezionisti, ma se era un club dove tu volevi andare e volevi un club per ballerini, allora il Wigan Casino era il posto adatto per te. Il Wigan Casino aveva vissuto sicuramente giorni migliori a livello architettonico e strutturale, però aveva un dance floor e un parquet spettacolari ed un'acustica ottima per i ballerini. Infatti era una sala molto molto grande dove si è arrivato a ospitare fino a 2000 persone. Quindi poi via via riprenderò il microfono per continuare a parlare del Wigan Casino. Vi ho promesso che in realtà ci sarà molta molta musica e quindi partirei da questo vinile di Billy Joe Royal e ci andiamo ad ascoltare Earth's Desire. Turn me on, baby, night and day. I hear questo era Her Desire, cantato da Billy Joe Royal. Quindi, come vi dicevo, il Wigan era principalmente un locale per ballerini e mi posso tranquillamente riferire a quello che disse all'epoca, scusate, all'epoca, Steve Godin, proprio colui che coniò l'epiteto Northern Soul, proprio quando parlava del Wigan. Diceva: Wigan era lontano da una posizione purista. Per me la musica soul è sinonimo della musica dell'America nera, è una forma musicale americana, ma in realtà il Wigan ha suonato ogni tipo di disco ed erano particolarmente esigenti per quanto riguarda il ritmo e la velocità della musica, perché appunto si trattava di un locale principalmente di ballerini, però non erano particolarmente esigenti da dove proveniva la musica, gli interessava principalmente il ritmo. Quella cosa era veramente il suono del Wigan. Infatti, il Wigan era il più grande dei dance floors del nord dell'Inghilterra e i DJ del Wigan avevano bisogno ogni volta, ad ogni cambio di 7 pollici, di trovare sempre un brano grandioso per far continuare a ballare il pubblico. Quindi, proseguiamo con il prossimo pezzo, che si intitola The World Again di Honey Townsend, e da questo pezzo in poi smetterò di annoiarvi con le mie chiacchiere e il DJ set proseguirà fino alla conclusione della puntata. Quindi ci ascoltiamo Honey Townsend con questo bellissimo strumentale. Thank you. you wonder if things will ever be the same. Be the same. It's so hard to realize, realize that all my love was cast aside. You think it's funny, but you don't know what you've done has hurt me so. Cause I love you, yeah, yeah. I still love you. Cause I love you, yeah, yeah. I still love you. Tell my friends I ain't no good. That's alright, it's understood. But I love you, alright. Sticks and stones may break my bones, but words will never change the way I feel about you. About you. Alright. You love her, she loves you. That's the way it's got to be together. When you met, you both agree that your love will always be sticking together. Cause I know, if you take it back, there'll be no. Cause I see the van. Cause I love you, yeah. I still love you. Cause I love you, yeah, yeah. I still love you. Cause I love you. Share a time and love. Let's make a Your love

questo era Taj Mahal con Ain't That A Lot Of Love. Si conclude qui questo DJ set dedicato al Wigan Casino. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata, mercoledì prossimo alle 19 su Radio Wombat, con un secondo spezzone dedicato sempre al Wigan Casino. Arrivederci, a mercoledì.